Respiro. Buongiorno e benvenuti a Respiro, io sono Cristina Carpinelli. Oggi vi portiamo a Rimini, dove si è da poco conclusa Ecomondo, la 13ª edizione della manifestazione fieristica per l'ambiente, una fiera che noi non potevamo far passare sotto silenzio, soprattutto qui in questo spazio, perché volevamo anche sottolineare come da un anno all'altro cresca e si componga sempre di più di intellettuali, tecnici e persone che vengono da ogni parte d'Europa. Dunque Ecomondo è in qualche modo la piazza che racconta bene questa moltitudine di persone interessate e attive soprattutto sul fronte ambientale. Simone Castelli è il direttore di Ecomondo. Il dato oggettivo sono i preaccrediti dei visitatori stranieri, che posso anticipare sono esattamente il doppio dello scorso anno. La manifestazione è cresciuta, siamo contenti e sorpresi, perché in un momento come questo vedere che questo prodotto tiene sul mercato in maniera così positiva ci fa ovviamente molto piacere. La manifestazione è cresciuta in tutti i suoi settori. Noi infatti cominciamo a definirci un po', spero che non veniamo di non essere preso come spocchioso, però come sistema ambiente, proprio perché le manifestazioni sono molto integrate, le aziende sono molto integrate, che vuol dire che ci sono aziende che ad esempio fanno trattamento acqua e trattamento bonifiche, per essere molto chiari. Quindi è sicuramente la sinergia tra i segmenti industriali, tra i visitatori, è sicuramente uno degli elementi cardine della manifestazione. Abbiamo fatto ovviamente tante attività quest'anno, però avrei piacere di segnalarne due. La prima è Sinnova, che è un progetto che lanceremo fisicamente nel 2010, ma abbiamo presentato quest'anno. È un progetto che nel 2010 porterà tutta la ricerca e sviluppo in ambito ambientale, ricerca e sviluppo a livello tecnologico ovviamente. L'idea di fondo è quella di dare una vetrina a quelle aziende che stanno investendo soldi, know-how, ore uomo nella ricerca e sviluppo tecnologica. Sarà una cosa trasversale che potrà andare da un motore dell'auto a un polimero chimico completamente biodegradabile, e sarà finalizzata appunto a presentare al mercato tutto ciò che in azienda ancora diciamo non ha un livello industriale. Ecomondo quest'anno è stato anche il luogo dove si sono celebrati i 10 anni dell'Italia del recupero. Accanto ai tradizionali carta, plastica, acciaio, vetro, legno, alluminio, oggi ci raccontano siano arrivati i riciclati emergenti, li chiamiamo così, come il granulato di gomma, ma alcuni si sono spinti molto oltre e sono andati a recuperare materiali pericolosi per l'ambiente come le batterie esauste, i veicoli fuori uso, le apparecchiature elettriche, elettroniche. E dunque il focus lo facciamo proprio su questo tema, e se parliamo di recupero di materia non possiamo non parlare di raccolta riciclata, e a questo punto diamo voce a CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi. Per farvi capire di cosa stiamo parlando vediamo solo alcuni numeri: 48,2 milioni di tonnellate di CO2 risparmiate, 76.000 nuovi posti di lavoro in 10 anni, benefici ambientali per 670 milioni di euro, questo solo nel 2009. Con queste cifre si celebra dunque il decennale di CONAI, e Piero Perron è il presidente, lo abbiamo raggiunto a Ecomondo nel giorno in cui si inaugurava lo stand dedicato ai materiali recuperati e riciclati. Abbiamo raccolto in 10 anni 39 milioni di rifiuti urbani. Siccome in Italia più o meno se ne producono 30 milioni all'anno, l'effetto CONAI è stato come se per un anno intero non ci fosse stato, più di un anno e qualche mese, non ci fosse stata produzione di rifiuti in tutta Italia. Noi abbiamo fatto fare evidentemente da un ente esterno ben qualificato un calcolo, no, appunto tra bilanciando voci di costo e voci di beneficio generale, ed è stato valutato che il CONAI in 10 anni ha prodotto effetti benefici per 6 miliardi e 600 milioni di euro. E un altro dato, poi entriamo nello specifico del lavoro di CONAI, riguarda i posti di lavoro. In un periodo in cui normalmente si parla di crisi, di disoccupazione, voi andate in controtendenza. Cioè, si è calcolato che in questi 10 anni CONAI abbia indotto un'occupazione di 76.700 nuovi occupati, e anche in un anno di crisi in cui tutti i numeri sono negativi, anche qualcuno dei nostri certamente lo sono, abbiamo abbiamo anche un numero positivo, ed è questo, cioè mentre chiaramente la quantità di imballaggi messi al consumo nel 2009, secondo le ultime previsioni, diminuirà di un 12%. Questo ha avuto un effetto evidentemente molto importante sui nostri ricavi, perché dipendono proprio dagli imballaggi immessi al consumo. Però nonostante questo, la raccolta nostra direttamente dei nostri consorzi è aumentata del 6,6%, quindi uno dei pochi dati veramente in incremento. Questo naturalmente ha significato anche che tutta la filiera del riciclo e del recupero ha avuto una crescita. La cosa che mi piacerebbe di più sottolineare anche per i nostri ascoltatori è proprio il concetto di recupero, no? Ci racconta come funziona poi questa parte, diciamo, del vostro lavoro? Sì, diciamo che lo schema è classico, cioè il cittadino deve separare, il comune deve raccogliere e il CONAI deve avviare al riciclo. Il CONAI si articola attraverso 6 consorsi, uno per materiale, dal plastica, vetro, acciaio, alluminio, carta e legno. Noi abbiamo un accordo con l'Associazione dei Comuni d'Italia, l'ANCI, per cui qualsiasi comune che avvii la raccolta differenziata può conferire a noi. A questo punto poi i consorzi CONAI hanno centri di selezione che sono generalmente gestiti da indipendenti e nella maggior parte dei casi poi i materiali così selezionati vengono poi messi all'asta e poi i riciclatori si preoccupano di trasformare questi rifiuti di imballaggio in materie prime e seconde, che molto spesso possono sostituire veramente le materie prime originarie, con grandissimi vantaggi ambientali. Ecco, per fare qualche esempio, visto che voi siete già in campo con una nuova campagna pubblicitaria che si intitola Da cosa rinasce cosa, ci sono alcuni esempi che mi hanno molto colpito, non so, una padella che nasce da 13 barattoli di acciaio, un pile da cosa nasce? Un pile nasce da un certo numero di bottiglie, credo ci sia una ventina di bottiglie, possono dare luogo al pile. Quindi tutti questi materiali vengono riciclati. Cioè, quello che noi cerchiamo con questa campagna, noi avevamo fatto anni fa una campagna sensibilizzando la raccolta differenziata, però molto spesso il cittadino ha l'impressione poi di lavorare quasi per niente, mentre invece no, si creano nuovi materiali, non si utilizzano materie prime, si risparmia un sacco di energia, si risparmia un sacco di emissioni di anidride carbonica e si crea nuovo valore. Cioè il valore di tutti i materiali recuperati dal CONAI in questi 10 anni è superiore al 1,2 miliardi, proprio valore dei materiali. Ecco, un'ultima domanda riguarda le imprese che lavorano proprio a questo recupero. Sono italiane o sono molto spesso straniere? No, sono quasi tutte italiane. Diciamo che sono imprese attorno alle quali hanno saputo attrezzarsi con tecnologie molto avanzate. Ad esempio ci sono aziende che trattano la plastica, riescono a separare anche le bottiglie di PET dei vari colori in modo da produrre poi granuli con materie prime seconde con questi stessi colori. Quindi sono generalmente aziende di dimensioni medie, medio piccole. Ecco, è necessario che ne sorgano di nuove, soprattutto nel sud, dove c'è un grosso incremento della raccolta differenziata. Quindi devono sorgere queste strutture che permetteranno di riciclare senza dover trasportare i materiali nei centri del nord. Ecco, il sud come sta andando? Dice che sta cominciando a ingranare il sud con la raccolta. Diciamo che io le ho detto prima che noi, in controtendenza, perché evidentemente c'è questa maggiore sensibilità dei cittadini, per quanto si siano immessi imballaggi in meno per un 12%, c'è stata la raccolta nostra è aumentata del 6,6%, però sul totale Italia. Questo comprende uno sviluppo di quasi il 30% al sud quest'anno. Quindi diciamo il Sud sta facendo un grosso sforzo, è necessario che questo sforzo di raccolta differenziata dia luogo anche a una raccolta differenziata di maggiore qualità, cioè quello che diciamo al Sud si sta raccogliendo molto di più è necessario raccogliere meglio, cioè la raccolta differenziata funziona bene se il Comune lo vuole fare in modo serio. Il CONAI è pronto a dare tutto il supporto a queste amministrazioni. Ci fermiamo adesso per qualche istante e torniamo subito dopo. Respiro. Bentornati a Respiro, ora parliamo di riutilizzo dei materiali, lo facciamo parlandovi di Eco, è una lampadina costruita totalmente con materiali riciclati che sfrutta la capacità di rigenerazione e di pulizia dei materiali. Si tratta della prima lampada al mondo costruita con questi parametri, che è stata già inserita tra i prodotti che gareggiano per il premio all'innovazione di Legambiente 2009. La lampada è stata presentata a Ecomondo di Rimini, noi ci siamo fatti raccontare come funziona, quanto costa e dove potremo trovarla da Giuseppe Ranieri, che è l'uomo che l'ha progettata ed è anche la persona che dirige la piccola società nata 2 anni fa sulla spinta di innovare nel quotidiano. Questo progetto parte già diciamo dalla proposta dell'Unione Europea di fare il passaggio tra l'eliminazione più graduale dell'incandescenza verso il basso consumo. Ci siamo innanzitutto posto il problema del mercurio, cioè di questa quantità di mercurio che sempre di più dovrà essere oggetto di riciclaggio o di stoccaggio. Quindi noi abbiamo incominciato da lì e tanto che le nostre lampade per ora sono le prime ad ottenere, compreso Eco, il 50% del mercurio diciamo rispetto a quello che è consentito, è meno di 2,5 mg, esattamente 2,2. Da questo processo mentale siamo arrivati appunto a immaginarci una lampada che fosse non solo nel mercurio riciclato, ma fosse anche nei suoi materiali di costruzione, quindi il vetro, la plastica, i metalli, eccetera. Il problema è stato affrontare il riciclaggio dei materiali e soprattutto che attraverso questo riciclaggio è stata la rigenerazione di questi materiali, dove abbiamo affrontato non pochi problemi per far sì che questi materiali potessero mantenere le stesse caratteristiche di un prodotto nuovo. Fate parte di coloro che fanno parte del premio all'innovazione amica dell'ambiente, giusto? Esatto. Di Legambiente. Esatto. Vi è stato riconosciuto quindi anche questo ruolo di innovatori. Quali sono le difficoltà? Un po' ce le accennate adesso, dicendo appunto la difficoltà era legata proprio al recupero dei materiali, ma quali sono le difficoltà anche burocratiche che un'azienda giovane come la vostra sta affrontando? Sicuramente quello che ci manca è la capacità di sostentamento finanziario per poter dar vita a progetti molto più ambiziosi, che ne metto uno tra tutti, cercare di eliminare il mercurio dalle lampade fluorescenti, che per adesso tecnicamente, almeno per quello che è il nostro know-how, non ne abbiamo la possibilità, però mettere questi obiettivi significa aver necessità di fare investimenti che da soli sono difficili da affrontare. Per il resto la burocrazia ci viene contro solo per il fatto che non è abituata. Ad esempio, il trasporto di mercurio tra un paese e un altro è molto difficile da ottenere, tanto che noi in questo momento stiamo pensando di attivare delle linee produttive in ogni paese che andremo a divulgare questa lampada, affinché si potesse generare un ciclo unico tra lo smaltimento di quel paese e la rigenerazione stessa che da quel paese viene per produzione dell'Eco. Ecco, quando si parla di Eco si mettono insieme diversi argomenti, perché dal riciclo delle materie prime si arriva ovviamente alla, come diceva lei, la diminuzione di utilizzo di mercurio, ma anche la riduzione di rifiuti prodotti perché vengono riutilizzati nella produzione, esatto, di questa lampada, ma anche il ricorso, dite voi, a risorse locali e quindi anche un uso meno impattante di trasporto, logistica, funziona, esatto, così? Le faccio un esempio. Oggi la Comunità Europea, quando ha dato via vita a questo processo di mortalità potrei anche aggiungere precoce dell'incandescenza a rispetto di altre sorgenti, ha incaricato alcuni consorzi per la raccolta e lo smaltimento di questi prodotti che sono diventati prodotti a rifiuto speciale. Però oggi l'unica risposta a chiudere questo cerchio diciamo virtuoso di questo processo è ECO, perché fino ad oggi il problema era smaltire, sì, raccogliere, va bene, ma poi più che stoccarle non si poteva fare. Con ECO, per fortuna, si riesce anche a utilizzare questo materiale speciale che, anche stoccato nel tempo, può provocare dei danni enormi. Prima di parlare di altro, vi do alcuni numeri di ECO. ECO entrerà nel mercato, nelle grosse centri di distribuzione, attorno a metà novembre, fine novembre, e costerà circa 6 euro. Questo quanto ci ha detto il progettista Giuseppe Ranieri, che è anche la persona che poi ha messo su la società e che produce questa lampada interamente costruita con materiali riciclati. Ora cambiamo argomento, parliamo di traffico e rifiuti, due grossi capitoli su cui a fatica i comuni italiani si muovono e sui quali in 10 anni sono stati fatti pochi interventi forti. Questo è il dato che emerge dal rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente. Le città italiane sono ferme nell'insieme al 27% di raccolta differenziata, molto lontane dal 50% che andrebbe assicurato entro il 2009. Non perdiamo ovviamente la speranza, però, perché anche nelle piccole storie quotidiane troviamo scogli a cui aggrapparci, e molti di questi spunti, diciamo scogli come li abbiamo chiamati, ve li abbiamo forniti nel corso di questa puntata. Comunque noi siamo andati a sentire da Vittorio Cogliati Dezza, che è presidente di Legambiente, come va il nostro paese proprio su questi temi. Nelle città medio-piccole, diciamo, che comunque sono capoluoghi di provincia, sicuramente alcune politiche è più facile svilupparle, a partire soprattutto dalla raccolta differenziata, mentre nelle città, nelle grandi metropoli, forse nonostante la difficoltà di sviluppare politiche dei trasporti pubbliche virtuose, gli investimenti potrebbero essere più significativi per la cosiddetta cura del ferro, metropolitane, sistema di interscambio, eccetera. Per cui, diciamo, ci sono dei pro e dei contro tra le varie città. Sicuramente, per esempio, una partita del fotovoltaico, delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica, degli investimenti sulla riqualificazione energetica delle abitazioni, credo che ci sia una, sia le grandi che le piccole le città sono un po' allo stesso livello, insomma, possono sviluppare politiche virtuose. Ecco, voi di Legambiente in questo dossier che avete presentato avete stilato una sorta di classifica delle città più virtuose e di quelle meno virtuose. Obiettivamente le città del sud ce ne sono solo 4 nei primi 42 posti, quindi sicuramente nelle città del sud c'è più difficoltà a sviluppare politiche di questo tipo, anche perché i risultati positivi che derivano da queste politiche non si inventano da un anno all'altro, hanno bisogno di una programmazione. Non è un caso che una città come Bari quest'anno è ancora penalizzata, ma sappiamo che già a partire dall'inizio del 2009 ha sviluppato una politica dei trasporti molto incisiva. Però bisogna anche stare attenti a non cadere nel luogo comune di distinzione tra nord e sud e basta, perché in realtà il sud è i sud al plurale, nel senso che tra nelle ultime 20 posizioni della classifica dei 103 capoluoghi la Sicilia ha tutti i suoi capoluoghi di provincia, ma né la Basilicata né la Puglia hanno una sola città in queste ultime 20, mentre invece ci sono 3 città del Lazio, una della Liguria e una della Lombardia, quindi in qualche modo la situazione è un po' più diversificata nelle micro aree. Ecco, invece per quanto riguarda realtà come quella di Verbania o anche altre piccole città che si stanno muovendo bene, secondo voi quali sono stati i punti reali di forza? Ma intanto c'è da dire che se andiamo a guardare le classifiche degli ultimi anni, sostanzialmente le prime 20 città sono sempre le stesse, possono variare di anno in anno la postazione per quarta, quinta, ottava, decima, ma sostanzialmente c'è quindi una stabilità. Evidentemente in quei governi locali, spesso anche indipendentemente dal colore politico, c'è un'attenzione e una cura del territorio che ormai fa parte della cultura